E buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è la 50ª puntata di Basement Records. E siccome sono il solito rintronato e come dice Antoine, se sei minchia ti tirano le pietre, e mi sono dimenticato il 45 classico d'apertura di Basement Records, ma è la 50ª puntata, allora va bene, va bene, va bene così. La sigla di stasera era questo 45 giri degli Orchestral Maneuvers in the Dark del 1983. Il brano è The Angels Keep Turning the Wheels of the Universe. Tra l'altro gli Orchestral Maneuvers in the Dark li avevo sempre sentiti nominare, e poi quando finalmente sono arrivato a trovarli ho detto li devo prendere, li devo mettere per forza. Questa atmosfera decisamente molto dark, però se pensate che era il 1983, questa atmosfera di elettronica pura era sicuramente all'avanguardia per i tempi, ecco, direi decisamente ha un suono molto più moderno e non dimostra i quasi 40 anni che ha. Tra l'altro vedo edito su etichetta Virgin, quindi una major, e non l'avrei mai giurato visto il tipo di musica di cui si tratta. Però appunto, prima di cominciare a mettere la selezione musicale di stasera, ricordiamo i contatti per mettervi qui in contatto con noi di Radio Wombat. Il sito è sempre lo stesso, radiowombat.net, dove potrete ascoltare i vari podcast e anche le dirette in streaming, e anche recuperare i vecchi podcast e tutto lì, e molto probabilmente ci starete ascoltando da lì, anche perché se non ci state ascoltando da radiowombat.net probabilmente ci starete ascoltando dalla nostra frequenza in onde medie 1359 1359, ricordo, in onde medie in AM, se siete nelle zone vicino o nei dintorni di Firenze. E la nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social sono sempre su Facebook e su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook facebook.com/radiowombatfirenze, per rimanere sempre aggiornati con noi, se siete animali da social, diciamo, e non usate i canali tradizionali come il sito o la radio o la radiolina. Questa è una puntata speciale, oltre a essere ovviamente la 50ª puntata di Basement Records, l'ultima puntata che avevo fatto ormai un po' di tempo fa, quella di Tonight Alive era la 90ª, e ora siamo giunti anche alla 50ª puntata di Basement Records, e ho selezionato per voi un po' di vinili che ho recuperato letteralmente sempre, come è successo nelle ultime puntate di Basement, all'associazione Mani Tese, che continuo a ringraziare per star facendo andare avanti i Basement Record. In particolare un carissimo saluto a Emilio e la Rosalba, che danno sempre una grandissima mano per andare avanti con le trasmissioni, avvertendomi dei nuovi arrivi vinilici. E puntata speciale perché è tutta improntata sulla dance, e ho trovato delle chicchine notevoli, devo dire. Questo che ho già qua sul piatto pronto non è uno degli ultimi arrivi, ma l'avevo preso in una delle visite precedenti, però non ero mai riuscito a trovare collocazione nell'ambito rock, jazz, quello che era capitato nelle precedenti puntate. Infatti stiamo parlando un disco sempre del 1983, della Bootleg Records. Questo è un disco Italo Disco. Italo Disco era quel genere dance post-disco, appunto, nato e cresciuto incredibilmente in Italia, e che tra l'altro è stato riconosciuto come una delle influenze fondamentali per la nascita della house dall'altra parte dell'Atlantico. Tantissimi dei padri fondatori della prima house di Chicago e di New York citano la Italo Disco come uno dei delle principali influenze che poi portarono alla definizione di questo nuovo genere di metà anni 80, che poi appunto fu chiamato house. Ma qui torniamo a fare un leggero passo indietro, torniamo nel 1983, e questi sono i Congo con Between the Sheets. 1983, 50ª puntata di Basement Records, naturalmente sempre qui su Radio Wombat. We'll be right back. una coda perfetta sarebbe stata per essere mixata per questo disco, ovviamente giusto per ribadire il concetto che sono un rintronato, l'ho detta al contrario, infatti il gruppo sono i Between the Sheets e il titolo della canzone era ovviamente Congo, come avrete notato. Il prossimo vinile proviene dall'ultima ricerca, appunto, dagli ultimi recuperi. Vorrei aprire una piccola parentesi, appunto, prima di mettere il prossimo disco. Infatti, quando poi sono tornato a cercare un po' di vinili per far proseguire le puntate di Basement Records, scartabellando tra i vari scatoloni che sono stati donati all'associazione, appunto, senza scopo di lucro, dove vado a ricercarli, ho trovato un discreto numero di dischi dance, in special modo, ora non è questo il caso del prossimo disco, però in special modo tutti concentrati nel quadriennio 88-92, in piena esplosione acid house. Infatti ci faremo un'immersione in questo stile musicale, di cui tra l'altro in Tonight Alive ho dedicato addirittura due puntate consecutive alla genesi e anche all'affermazione dell'acid house, questo ponte fra Ibiza e Londra, che fu un po' la nuova esplosione della musica dance alla fine degli anni 80. Però anche questo, anche se diciamo un po' rientra nel filone, è sempre questo vinile, che il prossimo vinile che ho qua sul deck pronto a girare, non parliamo ancora della fine degli anni 80, ma ancora dell'inizio. Infatti è un altro disco del 1983, si tratta dei Freeze, e questo pezzo è IOU Megamix. Che dire, in questa puntata di solo musica dance c'è poco da descrivere, molto da ascoltare e spero anche altrettanto da ballare, o quantomeno da muovere la testa se siete seduti oppure in un ambiente non propriamente adatto al ballo. Però questi sono i Freeze e questa è IOU Megamix 1983, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Parlando appunto di cominciare bene, anche se è un 33 giri, come avrete notato, non avevo notato la scritta sul centrino che spiegava che anche se è un 33 giri va fatto girare a 45. Mi sembrava un po' lenta, era andato fuori a fumare una sigaretta e c'era qualcosa che non tornava, allora ripartiremo. Questa era una versione più lenta, diciamo, che aveva un senso anche questa, però sentiamocela in versione come va ascoltata, se no non gli rendiamo assolutamente merito a questa chicchina di inizio anni 80. Ripartiamo, fate finta di niente. dicevamo? Freeze IOU Megamix. We'll be right back. Beh, direi che alla velocità giusta è tutta un'altra storia, che ne pensate? Questo è proprio un pezzone, secondo me. Poi, pensando che è del 1983, credo sia ancora più stupefacente, perché dimostra veramente, non dimostra davvero gli anni che ha. Tra l'altro, vedo che questo pezzo è sto leggendo adesso dal centrino, e ecco perché uno dei motivi per cui è finito nelle mie mani è perché avevo notato, ora che mi ricordo, sul centrino che è scritto che questo pezzo è mixato da una leggenda statunitense delle console come John Jollibean Benitez, Jelly Bean, scusate, e questo nome mi aveva fatto subito ronzare un qualcosa nella testa, e ho detto: questo credo che sia il disco giusto. E infatti, secondo me, è molto, molto interessante anche il lato B di questo disco, che se avanzerà a tempo, ve lo farò ascoltare anche dopo, se mi ricordo di farlo girare a 45 giri, anche se è un 12 pollici. Però adesso passiamo al prossimo disco. E appunto, tra questi nuovi dischi, da questi nuovi vinili trovati, mi ero poi perso nel mezzo del discorso che stavo facendo prima, trovando tutti questi vinili dance, lì dove vado a prendere i dischi. Mi ero stupito perché, appunto, una novità assoluta, parlandone con chi lavora lì, chiedendo se si ricordavano chi gliel'aveva donati, chi gliel'aveva portati. Per ribadire quanto è piccola Firenze, è venuto fuori poi che è una persona che aveva un negozio di dischi nel quartiere dove sono uscito per tantissimi anni da giovine. E sono riuscito a ricollegare e ho ricollegato tutto. Infatti, è stato una manna, direi una manna per Basement Records, almeno per i miei gusti, trovare tutti questi dischi. E il prossimo disco, tra l'altro, si tratta di un brano che, tra l'altro, avevo già inserito in una delle due puntate speciali sull'Acid House, e qui ormai siamo già a fine anni 80, precisamente nel 1988, nell'anno prima dell'esplosione dell'Acid House. Qui si sente molto anche l'influenza dell'hip hop che era nato da qualche anno dall'altra parte dell'oceano, e inevitabilmente aveva, con la sua tecnica di scratch e poi successivamente di campionamenti, ma anche proprio come metodo produttivo, aveva inevitabilmente influenzato una parte della musica elettronica. E questo disco, stiamo parlando di Beat This dei Bomb the Bass, che è un pezzo definirei epocale della prima Acid House. Credo che ne sia proprio una delle dimostrazioni più concrete. E in questo caso, avendo proprio finalmente trovato il vinile e avendolo qua tra le mie mani, non vi farò ascoltare la edit version classica del brano, ma bensì il lato B, ovvero la dub version di questo Beat This dei Bomb the Bass. Allora, rilanciamoci insieme in questo volo nella fine degli anni 80, il 1988. Loro sono i Bomb the Bass, questa è Beat This nella dub version, Qui siete sempre alla 50esima, non ve lo scordate mai, puntata di Basement Records, i vinili di recupero, sempre qua su Radio Wombat. E dove se no? We'll be right back. Mamma mia, qui ci starebbe stato proprio da 10, secondo me, il mixaggio con Pump Up the Volume dei Mars, giusto per rimanere nel solito ambito, nei soliti anni, e dopo, una volta finito Pump Up the Volume dei Mars, far partire questa beat diss, però nella sua edit version con la parte vocale. Ci sarebbe stato da 10, secondo me, però si fa così. Ve li sto facendo ascoltare senza mixaggio a un solo piatto, come ormai di uso e costume da qualche puntata di Basement Records. Prima o poi rifaremo anche dei mixati, non vi preoccupate. Tra ospitate, magari quando mi prenderà bene anche a me, e riavremo anche il secondo giradischi, no, non precludiamoci niente. E appunto adesso un nuovo vinile, nuovo nel senso sempre dell'ultima mandata che ho preso, mi aveva incuriosito di questo vinile questa copertina di questo personaggio che presumo essere Stevie V, l'autore di questo vinile, che mi ricordava molto DJ Jazzy Jeff, se ve lo ricordate, nel Principe di Bel-Air, l'amico fraterno di Will Smith nel telefilm, appunto, Il Principe di Bel-Air. Me lo ricordava molto, non credo sia lui, però incuriosito. Poi appunto ho preso questo vinile, e anche questo, stiamo parlando, qui siamo già nel 1990, poi non credo che sia stata un'intuizione balzana. Raccontatemelo voi alla fine della puntata, alla fine del pezzo, cosa ne pensate. Riascoltiamocelo insieme. Queste sono The Adventures of Stevie V, e questa è Body Language, però non nella sua versione, ve lo dovreste aspettare, non nella sua versione classica, nell'hot mix, bensì nel remix, diciamo, sul lato B, che è sempre, la canzone è sempre Body Language, però in questo caso è la It's a Street Fight Mix. 1990, The Adventures of Stevie V, Body Language, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Li odio quando non scrivono che devono andare a 45 giri invece che a 33 su un 12 pollici. Sappiatelo. E questo erano The Adventures of Stevie V con Body Language nella It's a Street Fight Mix 1990. E adesso nel nuovo disco apro un'altra parentesi, tanto ne apro poche solitamente. Allora, questo è un grande classico di una leggenda della dance americana, ovvero Shep Pettibone, e questo è uno dei suoi remix classici, e immaginate quando l'ho trovato. Infatti una delle prime cose che ho notato di questa serie di vinili dance che erano dentro questa scatola, che c'erano moltissimi, insomma, diversi remix di Shep Pettibone, che era praticamente il DJ della Kiss FM di New York, e i suoi mega mix appunto su Kiss FM hanno veramente fatto la storia e hanno influenzato tantissimi, veramente un numero esagerato di DJ americani che poi diventeranno sia disco, sia house che techno. È veramente Shep Pettibone è citato da la qualunque, se ha una provenienza a stelle e strisce, e questo mi ha fatto subito questo nome mi ha colpito istantaneamente quando l'ho letto nelle copertine dei vinili, e mi sono venute un po' gli occhi a cuore come le emoji, diciamo così. Questo è un suo remix classico, sono i Breakfast Club con Never Be The Same. Ora, non vi aspettate una dance come l'ultimo brano che abbiamo ascoltato, è un qualcosa, diciamo, molto più vicino alla musica suonata, un po' che un qualcosa che riporta anche alla genesi dell'acid house. Infatti, se andate a recuperare la prima puntata di Tonight Alive sull'acid house, quando parlavo appunto del DJ che ha generato tutto, Alfredo, che suonava a Ibiza, noterete che appunto rimaneggiava, rielaborava brani, diciamo, fondamentalmente rock in una chiave più danzereccia. E direi che questo si possa questo vinile dei Breakfast Club lo possiamo annoverare in quel filone. Tra l'altro, un'altra cosa che ho notato leggendo nel centrino di questo vinile è che questo remix è stato fatto in collaborazione da Shep Pettibone e un'altra leggenda della dance newyorkese, ovvero Junior Vasquez. E che dire, sto parlando anche troppo per essere musica dance. Tutti zitti, arrivano i Breakfast Club con Never Be The Same, Shep Pettibone Remix, 1987, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. E questi erano i Breakfast Club con Never Be The Same nel remix di Shep Pettibone e di Junior Vasquez. Prossimo disco, fortunatamente hanno scritto bello grande nel centrino che deve girare a 45 giri, quindi non lo sentirete rallentato come gli altri precedenti che avevano questa particolarità. E questo è un vinile dei D-Mob featuring LRS. E la cosa che mi ha colpito e che me l'ha fatto scegliere è che è di un'etichetta abbastanza famosa del periodo. Siamo sempre nel 1989 in piena esplosione acid house, ovvero l'etichetta è la FFRR, che è una sussidiaria della London Records. Etichetta abbastanza famosa e conosciuta in ambito dance, e questi appunto sono i D-Mob featuring LRS con It's Time to Get Funky, in questo caso nella versione Casuality Mix. Bene, non possiamo fare altro che metterlo sul piatto, farlo girare, selezionare i 45 giri e ricordarvi che siete sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. into his grave. So roll with the rhythm if you ain't yet got it. We set it loose and we ain't about to stop it. Are you with it? Get with it. You take it, forget it. High level climbing. Team up's credit. My pleasure to see you dance. It ain't something. Questi erano i D-Mob featuring LRS con It's Time to Get Funky, Casuality Mix. Bellissima. Tra l'altro, per essere il 1989, mi sembra che anche questo pezzo abbia veramente fosse avanti con gli anni, ecco. ripensando a come suona e fosse il 1989, veramente tanta roba secondo me. Pura, non li conoscevo, ve l'ho raccontato, la cosa che mi ha ispirato è stata l'etichetta di questo disco, della FFRR, appunto, e devo dire che ha mantenuto le promesse, ecco, che mi aspettavo. Mi piace molto quel disco. Ma bando alle ciance, torniamo a 33 giri. E questo è un altro vinile, giustamente direte voi, siamo su Basement Records, che cavolo ci stai dicendo? E mi ha ispirato così a occhio, e ce lo ascolteremo, e anche questo poi una volta ascoltato devo dire che mi è piaciuto molto. Un'etichetta che sinceramente nella mia ignoranza non conosco, la Fourth and B-Way, credo sia, è roba americana. E questi sono i Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling, però non ci ascolteremo il lato A, ovvero la Holes in Outback, ma ci ascolteremo l'altra versione, la versione sulla B-side, nel lato B, che in questo caso è Such a Good Feeling Inspirational Delight Mix. Questi sono appunto i Brothers in Rhythm. Non dimenticatevi che siete sempre qui a Basement Records, vinili di recupero, e sempre e ovviamente sulle frequenze di Radio Wombat. Let's go! questa era Such a Good Feeling dei Brothers in Rhythm, e come avrete potuto sentire è veramente un recupero questo, come tutti gli altri d'altronde, però in questo vinile sentivamo particolarmente l'uso che è stato fatto di questo vinile. Infatti sento un po' di graffietti, un po' di svirgolate della puntina per l'uso di questo vinile, ma giustamente è Basement Records, i vinili sono di recupero e quindi è anche giusto che sia così. E mi piace proprio che sia così, sappiatelo, sapevatelo. E il prossimo vinile, anche questo non lo conoscevo a scatola chiusa, però copertina veramente acid, di un bel giallo acceso, e poi con una premessa appunto su un fianco dance 12 pollici, It House, e una scritta che mi ha fatto decidere subito di portarlo qua a Basement, ovvero il titolo del brano che ci andremo ad ascoltare, che è Jack to the Sound of the Underground. Lo potevo lasciare lì? Potevo non farvelo sentire? Direi proprio di no. Infatti è il prossimo vinile che ci ascolteremo a brevissimo. Anzi, meno che a breve, ce lo ascolteremo subito. E questo è Basement Records, Radio Wombat. Picture this, recording studio somewhere far, far away. Ooh-wee, you bugger. What time is it? It's time for a house. Indovinate un po' cos'è successo? Recording studio somewhere far, far away. Bye. sound of the underground. Deck to deck to deck to the sound of the underground. Deck to the sound of the underground. E questa era Jack to the Sound of the Underground degli Hit House, anche questo 1988, anche questo ho notato con ritardo che fosse a 45 giri, ma ormai penso sia un classico di questa puntata, è andata così, e bellissimo, direi... L'apoteosi del copia e incolla, dell'inizio del sampling, anche questo brano puramente dance ma con una forte influenza hip hop, direi, qui l'uso del campionatore si sente particolarmente, se avete fatto caso ci sono sample di brani molto famosi tutti messi insieme in questo vinile, in questo lato di quasi 8 minuti. Questo era il party mix, tra l'altro, 7 minuti e 52, leggo. E tanta roba direi, mi piace molto. E passiamo al prossimo, e che dire di questo disco? Cos'è che me l'ha fatto scegliere? Innanzitutto la prima cosa è l'etichetta, la mitica House Music di Oltre Atlantico, un'etichetta che, come dice anche il nome stesso, è stata una tra le prime etichette a lanciare questo nuovo genere nei dance floor americani. Poi appunto nel centrino del vinile questa grande scritta Remix 1988, siamo sempre in quell'anno magico che è stato il 1988 per la musica dance. Vi dirò, voglio essere sincero, coloro che hanno prodotto questo disco non li conoscevo di nome, De Bernie e Peignot. Però appunto mi sono fidato ciecamente della nomea che ha l'etichetta, la House Music, e sentiamo cosa ci propina. Io l'ho già sentito e sono rimasto molto soddisfatto comunque anche di questo vinile. Poi per i miei gusti penso che non poteva essere altrimenti. Sentiamo se piace anche a voi questa ulteriore selezione di stasera. L'ambito è sempre lo stesso, il magico 1988. De Berry e Peignot, Work It to the Bone, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. The Rock House. The Rock House. The Rock House. The Rock House. The Rock House. The Rock House. The Rock House. Some chill is happening. Some chill is happening. Questa era Work It To The Bone di The Bernie e Peignot su House sull'etichetta House Music. E a proposito di House Music, parlando di House Music, il prossimo brano non poteva essere altro che questo vinile che ho tra le mani. Tra l'altro vedo anche ora, adesso, sotto la luce, che anche questo è bello vissuto, deve essere stato usato e suonato molto. Siamo sempre nel 1988. Questo brano è dei Royal House, Can You Party, in versione club mix. Questo è praticamente è un rifacimento della mitologica, nonché pietra miliare assoluta della dance music in senso totale, ovvero Can You Feel It dei Fingers Incorporated di Larry Heard. In questo caso questa Can You Party è un remix di un'altra figura mitologica della Chicago House, un altro pioniere che ha fatto letteralmente la storia di questo genere, ovvero Todd Terry. E quindi quando io ho letto questo centrino, come facevo a non scegliere questo disco proprio a scatola chiusa, cioè proprio sapevo dove andava a parare due autentiche leggende, appunto i Fingers Incorporated di Larry Heard, che hanno fatto la versione originale, Can You Feel It? E questo è il rifacimento, Can You Party, di quell'altra mitologica leggenda di Todd Terry, due figure che sono veramente due pilastri della prima Chicago House. Li potremmo chiamare due dei padri fondatori, ecco, senza ombra di dubbio. E appunto ogni dubbio me lo toglie anche quanto è stato usato questo disco, questo vinile. Anche questo ha 45 giri, fortunatamente qualche etichetta si ricorda di scriverlo bello grande nel centrino, questa volta non sbaglierò. E appunto adesso andiamoci ad ascoltare questa Can You Party sotto il nome di Royal House. Qui nella versione del lato A, ovvero il Club Mix, sempre del mitico 1988, quasi solo 1988 stasera, a parte qualche excursus nel pre dell'inizio degli anni 80, dell'inizio della puntata. E qualcosa anche di inizio anni 90, però il punto focale di stasera è il 1988. E appunto adesso andiamoci ad ascoltare questa Royal House con Can You Party? Siete pronti al party? Noi qua a Wombat sicuramente, io poi non ne parliamo. Basement Records. Inizia, non vi preoccupate. Check this out. Too black. Too strong. Check this out. Bye. black. Too strong. Check this out. Che dire se non mitologica, veramente. Per quanto mi riguarda, questo lato A sarebbe potuto durare 2 ore e non mi sarebbe mai venuto a noia. Si potrebbe far girare all'infinito, veramente. Però mi rendo anche conto di essere un po' particolare, ecco. E anche per essere stato usato così tanto, direi che suonava benissimo, nonostante in controluce si vedesse i segni inequivocabili di un uso intensivo. Devo dire che ancora suona straordinariamente questo vinile. Fantastico. E poi adesso ho il disco finale che tra l'altro è già stato messo, ma come avevo detto ad inizio puntata, ci tenevo a farvi sentire anche il lato B di questa chicchina. Ho ripreso appunto in mano il disco dei Fres. E dopo che ci siamo ascoltati ad inizio puntata il lato A, IOU Megamix, adesso ci andremo ad ascoltare una di seguito all'altra, quello che poi fondamentalmente è l'intero secondo lato di questo vinile dei Fres, edito da Beggar's Banquet, tra l'altro l'etichetta. Ribadisco, 1983, quindi facciamo un notevole passo indietro. Sono solo 5 anni, ma per 5 anni nell'ambito della musica elettronica possono essere anche una vita. Però appunto questo disco, per essere dei primi anni 80, mi ha colpito particolarmente, e quindi perché no? Perché non farvi sentire anche il secondo lato, che contiene 2 brani. Il primo è IW e il secondo, che ci ascolteremo subito di seguito, è We Got The Jets. E questi sono i Fres, su etichetta Beggar's Banquet, 1983, 12 pollici a 45 giri. E questa naturalmente è sempre Basement Records, i vinili di recupero, naturalmente qua su Radio Wombat. Questa era la doppietta del lato B dei Frères, scritto mi raccomando con tre E, esattamente. E come abbiamo potuto ascoltare, la prima traccia, IW, non era nient'altro che un rifacimento in chiave dub del lato A, IOU. Infatti la base fondamentalmente era più o meno la stessa, però rifatta in chiave dub, ovviamente, come dà titolo ai W. Anche questo un grande classico della musica dance, riprendere dei propri brani che magari avevano avuto successo e rielaborarli o prenderne dei sample. In questo caso era un remix con un altro, semplicemente con un altro nome. E tra l'altro, appunto, il primo brano che abbiamo ascoltato di questo lato, IW, avete potuto sentire appunto tutta la puntina che saltava, perché evidentemente il precedente proprietario che possedeva questo disco deve averlo suonato parecchio, molto più della versione, molto più della versione originale, direi. Molto interessante anche la seconda traccia, questa I Got The Jets. Insomma, questi Fresh mi sono piaciuti particolarmente, se non l'avevate intuito. Ricordo 1983, e a questo punto siamo arrivati alla fine di questa cinquantesima puntata di Basement Records. Mi sono tenuto ancora 5-6 dischi dance da propinarvi alla prossima puntata di Basement, quindi l'ambito dance ancora non è finito. Ben per voi o male per voi, dipende se vi piace il genere. A me piace particolarmente, quindi ve lo servirete nella 51esima puntata di Basement, o quella che sarà, insomma. Chi può dire cosa succederà nelle prossime puntate di Basement e di Tonight? E come consueto appuntamento per il finale della puntata, non mi rimane altro da fare che rinnovare l'appuntamento qui sulle frequenze di Radio Wombat con il programma di domani, di domenica, qui sulla radio. Come sempre, mi piace ricordarlo, appunto, è bene ricordare il palinsesto radiofonico, anche perché la domenica è una delle giornate più ricche per il palinsesto della radio, che inizierà alle 10 con Container, due ore di tutti quegli interventi, di tutti quei contenuti, appunto da qui il nome Container, che non sono riusciti a trovare spazio all'interno dei programmi già esistenti di Radio Wombat. E proseguiremo poi con la replica dell'ultima puntata di Libri, l'ultima puntata nel senso cronologico di Libri Ribelli, con il buon Sansa che continuerà appunto la lettura di uno dei suoi favolosi libri. E il programma poi prosegue con l'ormai classico appuntamento domenicale con il notiziario anticlericale, appuntamento all'ora di pranzo da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo, per poi proseguire nel primo pomeriggio con la replica della puntata di Wook Wops, dove i nostri inviati ci aggiorneranno su quello che sta succedendo dall'altro lato dell'Atlantico, per poi appunto andare avanti con i programmi e proseguire con la nuova puntata di Poyuit, il programma che è la diretta emanazione del Festival della Letteratura Sociale, che si svolge, come amo ricordare, ogni anno qui a Firenze. E Poyuit appunto è il programma radiofonico che è la diretta emanazione del festival. Ricordo che va in onda mediamente una volta ogni 15 giorni, non ricordo se questo se questa settimana sarà in onda oppure no, però nel palinsesto c'è e quindi è bene ricordarlo. È bene ricordare anche che va in onda una volta ogni 15 giorni. Per poi proseguire con lo stragrande classico, classicissimo del palinsesto domenicale di Radio Wombat, ovvero l'ormai leggendario programma di musica classica di Radio Wombat, ovvero La Fuga del Gatto con Bloody Mary e la Virgi, che alleteranno il nostro pomeriggio di ripresa dalle fatiche del weekend con un'ora e mezzo di musica classica, e ci addentreremo dentro questo universo musicale che è la musica classica, guidati dalle sapienti mani ed orecchie dei Bloody Mary e della Virgi. Poi il programma domenicale di Radio Wombat prosegue con l'altro programma che va in onda una volta ogni 15 giorni, ovvero L'Arte del Vizio. Non so chi ci sarà ospite in questa nuova puntata dell'Arte del Vizio, comunque in diretta dalle 19 alle ore 21. Per poi concludere il palinsesto musicale di Radio Wombat, anzi palinsesto in generale, perché essendo l'ultima trasmissione, il furto di trasmissione altrui delle nostre radio, diciamo, compagne, gemelle, fratelle e sorelle, non so quale furto di trasmissione ci sarà questo fine settimana e da quale radio, però fidatevi che se è stato scelto sicuramente ne varrà la pena, e il furto di trasmissioni altrui inizia appunto alle ore 21:30 per poi concludersi un'ora dopo alle 22:30 e concludere il palinsesto domenicale di Radio Wombat. Qui il vostro pena poco non può fare altro che, come di consueto, salutarvi ed augurarvi un buon proseguimento di fine settimana e rinnovare l'appuntamento con le prossime puntate di Basement Records e Tonight Alive, sempre ovviamente qui su Radio Wombat. Ciao a tutti, buon weekend, buon fine settimana, non fate i bravi. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore.